Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. In the future, everybody will be world famous for 15 minutes. In futuro ogni persona sarà famosa per almeno 15 minuti. Anche un artista pop come Andy Warhol, l'autore di questa celebre provocazione, non avrebbe mai immaginato che nel circo mediatico del nuovo millennio la fama si potesse raggiungere per ben più di 15 minuti e in modi davvero incredibili. La puntata di oggi di Destini Incrociati parla proprio di questo. È un paradosso. Un uomo lavora duramente per una carriera intera per raggiungere un traguardo che sognava fin da bambino. Poi la sua sorte si incrocia per uno scherzo del destino in una fosa notte coreana con quella di un altro uomo che si trova lì quasi per caso e che non ne azzecca una. Naturalmente a godere di una imprevista quanto grottesca fama sarà il secondo. Sono i nostri due personaggi di oggi. Andiamo a conoscerli, immergendoci nuovamente nel clima dei mondiali di calcio. Quello che sentite in sottofondo è l'inno della Corea del Sud. È martedì 18 giugno 2002. A Daejeon si sta per giocare un match valevole per gli ottavi di finale del campionato del mondo di calcio. Di fronte ai padroni di casa della Corea del Sud è l'Italia. Gli azzurri sono arrivati agli ottavi dopo un cammino abbastanza accidentato. Hanno vinto all'esordio contro l'Ecuador, perso la seconda partita del girone contro la Croazia, pareggiato la terza partita con il Messico. In Italia si accumulano le classiche chiacchiere che proliferano ogni quattro anni durante i mondiali. Se è vero che nel nostro paese ci sono tanti commissari tecnici quanti abitanti, è altrettanto vero che uno degli hobby prediletti dagli italiani è ricoprire di critiche il selezionatore della nazionale. Anche nel 2002, benché il CT sia uno degli uomini più vincenti del calcio italiano, il rituale si ripete. Media e tifosi non perdonano niente al grande Giovanni Trapattoni. Giovanni Trapattoni. È lui, il nostro primo personaggio di oggi. Andiamo a scoprire insieme qualcosa in più sul mitico Trap. Non si può dire gatto se non ce l'hai nel sacco. È una delle frasi più celebri di Giovanni Trapattoni, una di quelle che l'ha consegnato alla storia. Il Trap è un allenatore vincente, uno dei più titolati del calcio italiano. Ma non è amato solo per questo. Trapattoni è un personaggio straordinario, grande professionista, serio e infaticabile, e anche guascone, spontaneo, istrionico. La sua propensione alla gaffa, allo sproloquio, l'ha reso indimenticabile e ha fatto anche la fortuna di alcuni celebri comici. Guarda, più che ricordo particolare, un ricordo fra i pochi unici dei ricordi. C'è un uomo che teme particolarmente. Ma più che un uomo direi appunto un uomo che ha queste idee lì che gli spazi. Giovanni Trapattoni nasce a Cusano Milanino il 17 marzo 1939. Con tenacia e determinazione compie tutta la trafila che un giocatore professionista deve fare fino alla Serie A. Non in una squadra qualunque, in un sogno chiamato Milan. L'esordio in Serie A da calciatore arriva il 24 gennaio 1960 in Spal Milan 0-3. Alla fine di quell'anno Trapattoni viene convocato nella Nazionale Olimpica. Ci sono i giochi a Roma. Alle 9 di sera del 24 agosto la fiaccola arrivò in Campidoglio. Lì il fuoco venne custodito per tutta la notte. Rivera, Bulgarelli, Burnic, Salvadore, Ferrini, Favalli, Magistrelli e Trapattoni. Il meglio delle giovani promesse del calcio italiano nel 1960. Per il Trap è un'esperienza elettrizzante e serena. Sportivamente, innanzitutto, perché quella squadra gioca bene e arriva in fondo. Semifinale contro la Jugoslavia, pareggiata e persa al sorteggio. Ma sul piano personale, per il Trap la vittoria è piena. Insieme ai giovani compagni, Giovanni va a ristorarsi in una piccola trattoria romana, in Corso Traiano, per l'esattezza. Lì c'è il vino buono e la cucina casereccia. E c'è anche Paola, la nipote del titolare. Per il Trap è amore a prima vista, ma la timidezza è un bell'ostacolo. Ci pensa un compagno di squadra, Luciano Magistrelli, a fare il primo passo. Mentre le Olimpiadi seguono il proprio corso e Berruti infiamma il pubblico romano, Paola diventerà la fedele compagna di una vita e la madre dei suoi figli. Anche questo è Giovanni Trapattoni. Berruti sorpassa le vittime della forza centrifuga. Un augurale volo di colombi e la vittoria. Tempo 20:05. Per due volte nello spazio di due ore, Berruti ha ripetuto il tempo del record mondiale. Dopo l'Olimpiade, Trappa è titolare fisso nel Milan. Nel 61-62 vince il primo scudetto. Viene convocato ai mondiali cileni del 1962, ma un infortunio lo tiene fuori. La consacrazione a livello internazionale arriva l'anno dopo, tutto in 10 giorni. Si comincia il 12 maggio 1963. A San Siro, nel suo stadio, c'è un amichevole di lusso, Italia-Brasile. Al Meazza arriva il re, Pelé. Pelé in quel momento era la storia del calcio mondiale. E era l'astro nascente che a 18 anni aveva vinto nel 1958 il campionato del mondo in Svezia con il Brasile ed era il giocatore più famoso del mondo. Trapattoni è un mediano vecchia maniera, uno di quelli che sta in mezzo al campo e mena quando c'è da menare. Uno di quelli che viene messo in marcatura asfissiante sul fantasista della squadra avversaria, sul 10, e non lo fa respirare. E così succede quel giorno. Trapattoni su Pelé. Per un tempo la perla nera non tocca palla. Nella ripresa rimarrà negli spogliatoi. Trapattoni ha vinto il suo piccolo mondiale. La seconda tappa della consacrazione arriva 10 giorni dopo. A Wembley il suo Milan cerca di portare per la prima volta in Italia la Coppa dalle grandi orecchie, la Coppa Campioni, il titolo europeo per club. Sulla strada dei rossoneri però c'è un'altra pantera nera, Eusebio, il campione del Benfica. Rocco ci mette in marcatura Benitez, ma il portoghese è incontenibile. Fa gol dopo 18 minuti e sembra impossibile fermarlo. Torres. Scambio con Eusebio. La mezzala sinistra si porta in area milanista, rete. A questo punto Nereo Rocco si affida al suo pupillo e cambia la marcatura. Trapattoni su Eusebio. Per il fenomeno portoghese la luce si spegne. Rivera sale in cattedra, Altafini la mette due volte. Il Milan è la prima squadra italiana sul tetto d'Europa. È il Milan di Cesare Maldini, di Altafini, del giovanissimo Rivera e di Giovanni Trapattoni. La Coppa dei Campioni atterra a Milano. Ma ripetiamo, il Milan ha vinto l'ottava edizione della Coppa dei Campioni. Trapattoni rimane al Milan fino al 1972, quando chiude la carriera da calciatore. 11 indimenticabili stagioni con 2 scudetti, una Coppa Italia, una Coppa delle Coppe, 2 Coppe dei Campioni, una Intercontinentale. Con la nazionale chiude nel 1965, quando si strappa nel ritiro premondiale di Coverciano. La grinta, la lucidità tattica, il carisma fanno subito intuire a tutti che quel mediano coraggioso e tosto ha la stoffa per sedersi in panchina e dirigere grandi squadre. Giovanni Trapattoni è pronto a diventare il grande Trappa. Il destino ama giocare strani scherzi. Così la carriera di Trapattoni allenatore per un gioco della sorte appare subito in salita. L'allenatore del Milan è Nereo Rocco, squalificato. Il vice è Cesare Maldini, ammalato. La squadra viene affidata a Trapattoni, che è apprendista allenatore. Il match più importante, che sembra una formalità, un passaggio semplice verso lo scudetto della Stella. E invece le cose non vanno come previsto. La partita si chiude sul 5-3. Da Roma non sembrano arrivare cattive notizie, poi lo shock. All'87esimo lo juventino Cucureddu segna e regala lo scudetto ai bianconeri. Il suo rapporto con la panchina del Milan è a dir poco problematico. Si specializza in finali di stagione tribolati. L'anno dopo, infatti, nel 73-74, Cesare Maldini lascia. Il presidente Buticchi affida a lui un gruppo sfilacciato a 6 partite dalla fine del campionato. Lui ricuce e compie l'impresa soprattutto in Europa. Ribalta il pronostico col Borussia e porta la squadra in finale di Coppa delle Coppe, persa poi contro il Magdeburgo. Stessa cosa nel 74-75. Giagnoni è l'allenatore, ma entra in rotta di collisione con Gianni Rivera. Trapp fa il vice. Rivera è più del semplice capitano e va oltre. Rileva, con l'aiuto di Duina, il Milan dal presidente Buticchi e nella stagione successiva richiama Rocco come consigliere e promuove Trapattoni allenatore. Non è esattamente semplice allenare un giocatore che è anche il presidente e far accettare la cosa dal gruppo. Alla fine della stagione decide di chiudere. Si fanno avanti Atalanta e Pescara. Giovanni è lusingato, ma qualcuno lo ferma. È Pier Cesare Baretti, vice direttore di Tutto Sport. Aspetta a dire di sì, la Juve sta pensando a te. La Juve? Sì, per rilanciare i bianconeri, Agnelli e Boniperti hanno già scelto. Il futuro è Trapattoni. Il futuro è un'ipotesi, forse il prossimo alibi che vuoi. Il futuro è una scusa per ripensarci poi. Il futuro è una voglia, non si sa se è sincera. Il futuro è una donna che probabilmente spera, fino a quando chissà. Con la Juve inizia nella stagione 1976-77. È un'epoca di trionfi. Al primo anno arriva lo scudetto, vinto al fotofinish contro il Torino, e anche la Coppa UEFA. Saranno 10 stagioni in cui totalizzerà 462 partite, 6 tricolori, 2 Coppa Italia, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una Coppa UEFA, una Coppa Intercontinentale, una Supercoppa, un Mundialito. E poi il rapporto con Bredi, con Platini, con Boniek, con Rossi, con Tardelli. Il dramma dell'Eisel che gli strozza in gola l'urlo di gioia per il trionfo più atteso e più importante. Trapp sale sul tetto d'Europa nel giorno più triste del calcio italiano e vince senza nemmeno sorridere. Nel 1986, dopo il 6° scudetto, il Trapp viene chiamato a rilanciare un altro grande club. Si tratta dell'Inter di Pellegrini. Si aprono nuove pagine di trionfi. A Milano Trapattoni ci mette 2 stagioni per carburare. Nel 1988-89 l'allenatore milanese compie il suo capolavoro e costruisce l'Inter dei record. 13° tricolore dopo 9 anni, sbaragliando la concorrenza. 11 punti di vantaggio sulla seconda, il Napoli di Maradona. 26 partite vinte su 34. Alla fine della partita decisiva a San Siro, proprio contro il Napoli, esplode incontenibile la gioia degli interisti e del mister Trapattoni. Dai. Allora è qualcosa che è veramente sempre di ripetibile, sempre più meraviglioso. C'è un traguardo stupendo, un traguardo che questa squadra ha voluto dal primo giorno e lo merita. Senti, il tuo settimo suo. No, è questo della società, dei giocatori e di tutti. L'esperienza all'Inter dura poco, solo un'altra stagione. Secondo Trapp non ci sono i presupposti per aprire un ciclo. Torna alla Juve, rimane 3 stagioni, ma vince solo una Coppa UEFA. Dal 1994 iniziano i viaggi e le peregrinazioni. Prima il Bayern Monaco, 3 stagioni intervallate da una breve esperienza al Cagliari. In Germania vince un campionato, una Coppa e una Supercoppa. Ma soprattutto regala ai media uno sfogo leggendario in una conferenza stampa passata alla storia. Strunz! Strunz in sbagliare ias che spil sen spil! Isima ferlez! Vassa erlaube! Strunz! L'este jare meister geworden mit Amann nel Liger! Dice Spieler war ein Spieler! E va meister geworden! Isima ferlez! Anche spille 25 spille in dieser Mannschaft, in diesem Verein. Dopo il Bayern c'è la Fiorentina di Cecchi Gori e Batistuta, con le sue ambizioni da grande squadra. Trapp la porta al 3° posto e alla qualificazione in Coppa Campioni. Siamo ormai arrivati al 2000. Dopo la sconfitta nella finale dell'Europeo olandese, il CT della nazionale Dino Zoff lascia l'incarico. La federazione pensa immediatamente a lui, il più vincente del nostro calcio. La maglia azzurra, che non gli ha mai regalato grandi soddisfazioni da calciatore, gli offre la possibilità di riscatto come commissario tecnico. Così il primo obiettivo diventano i mondiali del 2002. La qualificazione arriva senza patemi d'animo. La grande esperienza di Trapattoni si sposa con un parco giocatori di altissimo livello. Totti, Del Piero, Gattuso al top della forma fisica, Nesta, Cannavaro e Maldini a sorvegliare la porta difesa da Buffon. Al torneo che si svolge in Giappone e Corea del Sud, l'Italia arriva tra le favorite. Ma stenta nel girone eliminatorio e Trapattoni non riesce a evitare le insidie di un ottavo di finale contro i padroni di casa, la Corea del Sud. Le insidie si annidano tutte in un sospetto che si è concretizzato nelle partite precedenti. Per questioni legate alla macchina economica e al lancio del calcio in Estremo Oriente, la Corea del Sud è decisamente favorita dagli arbitraggi. I media del nostro paese instillano il timore che qualcosa possa andare storto. Osservato speciale diventa l'arbitro di quella gara. Un nome fino ad allora sconosciuto, che impareremo però a conoscere molto bene. Si chiama Byron Moreno. Byron Moreno. Ho 6 cose nella mente e tu non ci sei più, mi dispiace. Guardo dentro agli occhi della gente, cosa cerco non so, forse un uomo. Destini incrociati. Oggi Destini incrociati è in Corea, il 18 giugno del 2002. A Daejeon si stanno per affrontare l'Italia, guidata dal CT Giovanni Trapattoni, e la Corea del Sud, padrone di casa. Per Trapattoni il mondiale coreano è il coronamento di una carriera straordinaria che l'ha portato a essere l'allenatore più vincente del nostro calcio. Tuttavia, un girone di qualificazione poco brillante ha portato l'Italia dritta nella tana del lupo, a contatto con l'insidioso confronto diretto con i padroni di casa. Prima del match si accumulano i sospetti. La Corea potrebbe essere favorita dall'arbitraggio. Arbitraggio che viene affidato a uno sconosciuto arbitro ecuadoriano, Byron Moreno. Byron Moreno nasce in Ecuador nel 1969. Non sappiamo moltissimo della sua vita, se non che dopo una misera carriera da calciatore nelle serie minori, tenta la via dell'arbitraggio ancora giovanissimo. Infatti inizia ad arbitrare nel suo paese nel 1994, quando ha solo 25 anni, e 2 anni dopo è già internazionale e invitato a partecipare alla Coppa America. Il Mondiale del 2002 è il suo primo campionato del mondo. Non ha grande esperienza e nonostante questo arriva la designazione per il match contro gli azzurri. Una designazione che lascia un po' perplessi, data la delicatezza del match. Ciò nonostante, si può dire che in un certo senso il destino degli azzurri e di Giovanni Trapattoni sia nelle sue mani. Un destino bizzarro, che cambierà decisamente anche la vita di questo minuscolo arbitro sudamericano. Alle 12 ora italiana, Moreno fischia il calcio d'inizio. Partiti intanto con Maldini in possesso di palla. Purtroppo non passa molto tempo prima che si capisca che molti dei sospetti erano in realtà più che fondati. Siamo al 13° del primo tempo. Parte il traversone, messa fuori. Attenzione! E c'è un rigore decretato dall'arbitro. Cominciamo bene. Andiamo bene. Ma è una di quelle situazioni che si verificano frequentissimamente in area di rigore. La retroguardia azzurra, orfana di Nesta e Cannavaro, non è certo impeccabile, ma il rigore che l'arbitro ecuadoriano concede dopo pochi minuti è indubbiamente generoso. Per fortuna la prima pezza la mette Buffon. E c'è subito il calcio di rigore per la Corea del Sud. E lo para! Infatti lo ha parato sulla conclusione di Ang, miracolo di Buffon. Poco dopo, al 18° del primo tempo, l'ariete degli azzurri, Christian Vieri, insacca un cross di Panucci e porta in vantaggio l'Italia. La squadra che c'è. Parte il tiro della Badierina, gol! C'è il gol! Ancora, gol di Vieri, ancora lui, sempre Vieri. Da qui in avanti succede veramente di tutto. In particolare i coreani giocano al limite del regolamento e oltre, picchiando brutalmente e intimidendo gli azzurri. La squadra italiana rimane comunque padrone del gioco. Tutto sommato eravamo messi bene, eravamo ben concentrati, la squadra era molto equilibrata, tanto è vero che noi non soffrimmo quella Corea in quella fase di gioco. L'Italia spreca la possibilità per il raddoppio. I coreani salgono di tono e continuano a picchiare, protetti dall'arbitro Moreno. Zambrotta, colpito duramente, lascia il campo e costringe Trapp a un cambio forzato. Francesco Coco riceve una gomitata in testa ed è costretto a giocare con una vistosa fasciatura. Saltato un avversario, Totti, accelerazione, Totti, converte, Totti, limite, Totti, ancora, poteva tirare, viene messo giù l'arbitro, incredibilmente, forse stavolta il fallo c'era, ecco che, vediamo se rimette a mezzo tre pattoni, assolutamente indiavolato. I cartellini giallo e rosso rimangono nel taschino del direttore di gara, che estrae il giallo solo per ammonire sorprendentemente Francesco Totti. Nonostante questo, gli azzurri sembrano riuscire a spuntarla, quando nel finale una distrazione di Panucci costa cara all'Italia. Palla sul destro, 1-2, attenzione, il pallone che resta lì, gol da parte di Sol, incredibilmente all'87. La partita va ai supplementari con la regola del golden goal. Chi segna, vince. Golden Goal è una regola introdotta dalla Federazione Internazionale nel 1944 per cercare di spronare le squadre ad attaccare durante i tempi supplementari. Dal momento che si è verificato l'effetto contrario, cioè squadre più chiuse per cercare di non subire gol, nel 2004 è stato abolito definitivamente. Così Trapattoni si esprime, ricordando la paura di subire il Golden Goal in quei maledetti supplementari. Quelle circostanze non è che si usano molte parole, crediamoci, siamo più forti, tutto sommato eravamo in grado di poter qualificarci, e anche perché per buona parte della gara li avevamo tenuti noi il gioco. Ai supplementari però chi si scatena davvero è l'arbitro Byron Moreno. Scaldando intanto Montella, sfiora il pallone Vieri, attenzione, Totti, in area di rigore, va giù, vediamo, qui... Adesso lo ammonisce, sta attento. Ma no, adesso ammonisce, questo non esiste. È una cosa, allora va bene. Francesco Totti, steso in area da un difensore coreano, viene ammonito per simulazione. Byron Moreno gli sventaglia sotto gli occhi il cartellino rosso per doppia ammonizione. Il fuoriclasse della Roma è incredulo, come milioni di italiani a casa e come Giovanni Trapattoni in panchina. Noi reclamammo addirittura rigore, l'arbitro lo ammonì per simulazione. Voglio dire, non dare rigore, ma non dare neanche simulazione, voglio dire, non è purtroppo, va bene, si è discusso molto, ma è inutile ritornare sugli argomenti. Poco dopo Moreno la fa ancora più grossa. Benché in 10, l'Italia tiene in mano il pallino del gioco. Vieri mette Tommasi solo davanti al portiere. Vieri, eccolo. Siamo. Vieri, Tommasi, attenzione, Tommasi, fuori gioco anche questo. Benissimo, avanti allora. Vale tutto. Ma come si fa a fare queste cose qui? Era in linea perfetta. Tommasi, solo davanti al portiere, lo salta e deposita in rete. Ma Byron Moreno ha già fischiato. Fuori gioco. Tommasi, però, è in gioco di almeno un metro. La partita si gioca ormai in un clima irreale, davanti a 60.000 coreani in festa. Gli azzurri sembrano prigionieri di un incubo da cui sono incapaci di uscire. Poco dopo, Rino Gattuso divora il golden goal. Quando Gattuso poteva segnare il gol della storia davanti al portiere. Voglio dire, adesso questo sorrido perché è bene far ricordare un po' gli episodi. Pochi minuti dopo, il disastro. L'Italia è fuori dal mondiale. Un rigore contro inesistente, decine di falli non fischiati, ammonizioni non date agli avversari, due rigori non concessi, l'espulsione surreale di Totti, il golden goal di Tommasi annullato. Questo è il bilancio dell'arbitraggio di Byron Moreno. Il sogno di Trapattoni si infrange quella sera. I giornali stranieri, quelli spagnoli soprattutto, stigmatizzano le lamentele azzurre. La colpa non può essere data all'arbitro, ma la sorte ne ha anche per loro. Ai quarti di finale c'è Spagna-Corea, partita che passa la storia come uno dei più grandi furti della storia dei mondiali di calcio. Quello che succede in Spagna-Corea va addirittura oltre quello che era accaduto agli azzurri. Tre gol annullati in maniera platealmente assurda. E poi falli a ripetizione dei coreani, che vengono incredibilmente tollerati. Anche gli spagnoli percepiscono di trovarsi in una trappola che li porta ai rigori. Lì la Corea vince. Il giorno dopo i giornali spagnoli titolano «L'Italia aveva ragione, è un furto». Trapp viene riconfermato alla guida della nazionale e fa rotta verso gli europei del 2004. Qualcosa però si è rotto dopo quel mondiale. Fiducia, voglia di lottare si sono leggermente appannati. Quello che succederà negli europei è un'altra surreale ingiustizia sportiva e spezzerà definitivamente il legame tra Trapp e la nazionale. Intanto Moreno, grazie a quell'arbitraggio scandaloso, diventa famoso, diventa un personaggio. Tra poco, a destini incrociati. Yeah. I wanna see a dead man. Adesso credo nei miracoli. Yeah. In questa notte di mondiali di calcio. Yeah. L'Italia che è sconfitta dalla Corea. Yeah. Ho avuto un attacco di diarrea. Destini incrociati. A destini incrociati abbiamo appena ripercorso la cocente eliminazione dell'Italia ai mondiali del 2002 da parte della Corea del Sud. In quella calda serata di giugno si incrociano i destini di due uomini, Giovanni Trapattoni, CT della Nazionale, e Byron Moreno, l'arbitro di quella gara. Il primo cercava la consacrazione mondiale e porta a casa solo una bruciante delusione. Il secondo era un perfetto sconosciuto, ma l'arbitraggio scandaloso con cui condanna l'Italia lo proietta paradossalmente nel circo mediatico. Subito dopo il mondiale, Moreno torna ad arbitrare in patria, portandosi dietro questa non proprio piacevole nomea di arbitro corrotto. Tanto per non destare sospetti, Moreno decide di entrare anche in politica. Così, un'importante partita di campionato cementa le dicerie sul suo conto. Liga di Quito, la squadra della città dove lui è candidato, contro Barcelona Sporting Club. A metà del primo tempo, Moreno concede un rigore inesistente, clamoroso, ai padroni di casa. La partita si inchioda sul 2-2. Pur di far vincere la squadra di casa, Moreno concede 6 minuti di recupero e poi chiude la gara solo al 93esimo, subito dopo il gol vittoria del Liga di Quito. Gli avversari cercano il linciaggio. L'arbitro scappa. La federazione ecuadoriana lo sospende. Un momento. Un momento. Che bello, vai. Da. Ma che bello. La faccia. La faccia. No, bla. Che la faccia. La bella faccia. Bella faccia. Vai. Bella faccia. Che bella faccia. Vai, no. Vai. Quello che avete sentito è un estratto della prima apparizione di Moreno sulla TV italiana. Al programma televisivo Le Iene, l'arbitro viene rintracciato, ma si rifiuta di parlare. Poco dopo decide di cavalcare la popolarità. Partecipa al programma televisivo Stupido Hotel, dove si esibisce in un ballo sexy con Carmen Russo. Durante la trasmissione risponde ad alcune domande sull'arbitraggio di Corea-Italia, dando risposte non esattamente lusinghiere e riconcilianti, come questa. Gli italiani sono come Mussolini, pensano che debbono vincere con le buone o con le cattive. La verità è che non sanno proprio perdere. Da qui una serie di grottesche partecipazioni pubbliche. Al Carnevale di Cento, alla finale di calcio a 7 di Scortichino di Bondeno, dove diventa oggetto di un lancio di uova. Sono solo due esempi della seconda vita di un uomo che, espulso dal mondo del calcio e perse anche le elezioni cui si era presentato nel suo paese, vive di rendita dalla fama dovuta a uno degli episodi sportivamente più controversi della nostra nazionale di calcio. E trappattoni? Beh, il grande trap continua sulla panchina della nazionale di calcio. Obiettivo Euro 2004, in Portogallo. Trapp digerisce a fatica lo smacco coreano e a fatica si presenta bramoso di vittoria ai campionati europei. Un'altra clamorosa delusione, però, lo attende. L'Italia capita in un girone con Danimarca, Svezia e Bulgaria. Nel primo match, gli azzurri non vanno oltre uno scialbo 0-0 con i danesi. Un episodio, però, inquina drammaticamente l'esordio della nazionale. Esasperato per i continui falli subiti, Francesco Totti, l'uomo di punta dell'attacco azzurro, sputa addosso al danese Poulsen. L'arbitro non vede, le telecamere sì. Scatta la prova televisiva, due giornate di squalifica e inizio in salita. Le cose si complicano ulteriormente quando gli azzurri pareggiano la seconda gara contro la Svezia. Ora vincere la terza partita contro la Bulgaria, che ha perso entrambe le prime gare, non basta più. Per un cervellotico meccanismo, se nell'altro match dell'ultima giornata Danimarca e Svezia pareggeranno per 2-2, la qualificazione sarà loro. Si teme un accordo. Un accordo che puntualmente arriva. I media lo chiamano il biscotto. Gli azzurri piegano la Bulgaria, ma Danimarca-Svezia finisce proprio 2-2. Gli azzurri sono fuori. Trapp per la seconda volta è beffato, questa volta addirittura imbattuto. Pochi giorni dopo lascia la panchina azzurra al nuovo CT, Marcello Lippi. Il Trapp ora è sulla panchina dell'Irlanda, dove una nuova ingiustizia arbitrale, un clamoroso fallo di mano non visto dall'arbitro nello spareggio decisivo, l'ha privato della qualificazione ai mondiali. Eppure, nonostante i torti subiti, nonostante le delusioni, nonostante tutto, Trapattoni è sempre lì, con la consueta schiettezza, con la consueta profonda correttezza e sportività. Chissà come sarebbe cambiata la sua carriera se in quella notte coreana Byron Moreno avesse permesso agli azzurri di giocarsi i quarti di finale contro la Spagna. Chissà anche dove sarebbe ora quel piccolo e prima sconosciuto arbitro sudamericano che ha trovato la sua fetta di celebrità in quella scandalosa serata mondiale. Vedrai che non la perderò. Io posso, io devo, io voglio vivere. E insieme a te ci riuscirò. Io devo farlo, è l'ultima occasione per vivere. Vedrai che non la perderò. Perché io posso, io devo, io voglio vivere. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Altri destini si incroceranno domani alle 15 qui su Radio 24.